No, vabbè, allora tutte queste varietà qua di mais hanno un ciclo vegetativo molto breve e seminandolo presto, per cui fine aprile, maggio, abbiamo diciamo uno sviluppo dove abbiamo sicuramente delle piovosità relativamente decenti, o meno che capita qualche anno che proprio non piove, per cui abbiamo bisogno di irrigazione. Il quantitativo di acqua è minore perché la produzione è minore. Cioè, allora, è sempre stessa storia. Magari non si dice mai ad una donna che ha appena partorito, che fa latte, detto, guardi, se lei vuole fare un litro di latte deve bere almeno 7-8 litri di acqua. Questo è il rapporto giusto, perché anche una scrofa, se deve fare un litro di latte, deve bere almeno 7-8 litri di acqua, perché altrimenti non si produce. E idem sulla pianta e sui vegetali, qualunque pianta ha bisogno, per fare una determinata produttività di una sostanza, ha bisogno di acqua, altrimenti anche noi moriremo, no? Noi non ce ne rendiamo conto di bere 5-6 litri di acqua al giorno, perché lo prendiamo con una serie di altri fonti. La pianta di mais, più si concima, il concime di per sé ha bisogno di anche acqua per trasformarsi, per essere reso disponibile alla pianta, eccetera, eccetera. Per cui le coltivazioni industriali effettivamente hanno bisogno di tanta acqua. Il problema principale, secondo me, non è tanto che l'agricoltura beve acqua. L'agricoltura prende l'acqua per bagnare il terreno dove la pianta si sviluppa. Ma tenete conto che, soprattutto nei nostri terreni, per fare un buon riso, il riso deve essere allagato, ma di acqua pulita. Cioè, non basta dire metto sull'acqua e sta lì. L'acqua si sporca, si inquina, eccetera, eccetera, va ricambiata. Poi abbiamo il percolamento del terreno dell'acqua. Se noi non portiamo, perché sono contrario a questa tua considerazione, ma però se noi manteniamo sempre l'acqua nei laghi e la portiamo via tramite i fiumi al mare, noi perderemo un sacco di acqua nei fontanili, perderemo un sacco di acqua in tutta quella zona dove abbiamo dei problemi poi con i pozzi, perché non portiamo acqua superficiale che, filtrandosi, perché l'acqua, mettetevi nella testa, è comunque inquinata, l'acqua dei bacini è inquinata, perché se abbiamo trovato dei pesticidi, piuttosto erbicidi, piuttosto che fonti anche di radioattività nei ghiacciai, immaginatevi la nostra acqua, non c'è niente da fare. Per cui addirittura adesso vietano la balneazione nei laghi. Oh, ma questo è proprio il colmo, no? Comunque va bene. Per cui se noi quest'acqua qui la facciamo, certo, inquineremo un pochino il terreno, ma però ci sono tutta una serie di flora batterica, enzimi, eccetera, eccetera, nel terreno, che aiutano a depurare un po' quest'acqua qua, e poi noi ce la troveremo quest'acqua qua nelle falde acquifere comunque più pulita che prima, e non mandiamo comunque acqua dolce continuamente al mare. Noi con l'agricoltura, con l'irrigazione, si cerca di mantenere l'acqua nel territorio portandola poi nelle falde acquifere sempre più pulita. L'azione di filtraggio delle risaie o dell'irrigazione a scorrimento, ma anche dello stesso mais industriale, cioè chiamiamo industriale per intenderci, cioè agricoltura convenzionale che spingono la produttività, aiuta comunque a migliorare l'effetto dell'acqua. Ha delle contraddicazioni: se viene fatta male, naturalmente da una parte miglioriamo, ma contemporaneamente portiamo degli effetti negativi. Occorre, l'ignoranza va combattuta, a parte sempre dell'agricoltore, che a far passare concetti, le conoscenze corrette, nuove. L'agricoltura biologica, biodinamica integrata, cioè l'agricoltura integrata proprio è quella che magari rientra di più come concetto, no? come termine integrata. Perché? Perché integra un sacco di informazioni che, cioè io esco dalla scuola che alla fine della ferma avrà dato, che ne so io, l'1% delle nozioni dell'agricoltura che faccio adesso? Forse, magari, facciamo l'1%, ma come uguale anche l'ele, no? È uguale, cioè, anche gli studi che si fanno a scuola, spero che adesso magari sono migliorati, ma però non penso tanto, i concetti che si scrivono sui libri, le maggiori, più grosse ricerche sull'agricoltura sono pagate dalle multinazionali, e sui libri cosa si scrive? Immaginatevi le cose che qualcuno vuole che vengano scritte. Per cui il concetto di agricoltura, come minimo deve essere il concetto integrato, per cui cosa vuol dire l'acqua, cosa vuol dire la rotazione, cosa vuol dire l'utilizzo di insetti, cosa vuol dire avere le siepe intorno ai terreni, cosa vuol dire tante cose. E questo è difficile, questo è pesante, questo vuol dire mettere insieme anche delle nozioni, delle capacità di analisi delle stesse nozioni, che occorre tempo, soldi. Purtroppo in questa vita nostra, questa società qua nostra, neanche l'agricoltore ormai ha il tempo di dire ci ragiono, ci penso. Questo vuol dire costare, questo vuol dire far aumentare i prezzi dei prodotti, che non è possibile. Ormai siamo in una mondializzazione, ci diciamo non è possibile. E ho capito, anch'io faccio l'altro mais che... l'agricoltura integrata con mais vitri per polenta specifici che costa 3 volte meno che questo, ma perché? Perché comunque, a parte ce n'è poco di questo, ma però perché la gente dice cavolo devo spendere 4 euro al chilo, con quella là ne prendo 3 chili quasi. Cioè rendetevi conto che è difficile mettere insieme tanti fattori, ma però se il consumatore chiede poi anche il produttore lo dà. Rendetevi conto di una cosa soltanto: il latte. Andate su un sito che si chiama realcmilk.com.org, è quasi tutto in inglese, un po' di poco italiano, che però vi fa capire cosa vuol dire per le multinazionali farvi mangiare, io non lo mangio, farvi mangiare il latte pastorizzato. Però il latte che andate a prendere da macchinette bisogna bollirlo. Ma che cazzo state dicendo? Scusate il termine, ma però cioè, è proprio una fantasia che non ha senso. Idem sugli altri prodotti, dalla verdura, dalla frutta, dalla stessa polenta che dovete mangiare, quella che ci mettete 10 minuti a farla. E vabbè, mangiatela. Cioè, è qui che il consumatore va abituato. Quando, diciamo a Docina, anch'io, no? Quando ho cominciato a fare questo mais qui, tutti quelli vicino a me dicevano oh, che cavolo di mais stai mettendo giù, mais alto così, che bisognava stare attenti quando entrare a raccoglierlo. A parte vabbè, noi non disurbandolo, ok, per cui quasi biologico, diciamo, però si sporcava, cadeva, andava dentro mano, far passare prima della raccolta, eccetera, eccetera. E però, signori, se si vuole una cosa, bisogna farla. E per quello che adesso, da 10 metri quadrati avevo cominciato il primo anno, adesso vendono giù 11 perti, 7.000 metri quadrati, qualche cosettina si fa. Gli altri agricoltori cominciano a capire qual è il senso. Mi costa anche, no? Perché vado dai miei vicini e dice cavolo, prova a mangiare questa polenta qua, prova a seminarlo, che adesso forse ce n'è due che sono convinti, però è uno sforzo culturale, non indifferente, ma d'altra parte ci deve essere anche il consumatore che capisce queste cose qua. Scusate, è dello sfogo.